Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da gennaio ad agosto del 1824. Enciclica del Papa stretta su osterie e vestiti attillati, rimosse le statue con donne nude. La Grecia tra guerra di indipendenza e guerra civile, muore tra i ribelli Lord Byron. Londra nasce l'Associazione per gli animali, il suo fondatore portò a processo un uomo per le bastonate al mulo. Trionfo a Vienna per la nona sinfonia di Beethoven, il maestro è ormai completamente sordo. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. Non ha preso di mira solo i liberali e le timide riforme di Pio VII, il nuovo Papa, ma ha deciso di intervenire duramente anche sui costumi della popolazione dello Stato Pontificio. Per alcune settimane si è temuto che il suo fosse un pontificato brevissimo, ma la malattia mortale che aveva colpito il Papa Leone XII è miracolosamente regredita e il pontefice ha messo in campo una serie di iniziative che confermano la sua fama di intransigente. Ha inviato in Romagna con pieni poteri il cardinale Rivarola per stroncare i carbonari e ha pubblicato il 5 maggio la sua prima enciclica che richiama i vescovi alla presenza nelle diocesi, ma soprattutto condanna severamente tollerantismo e indifferentismo. Causa, scrive il Papa, delle tante sette di oggi. Tuttavia a Roma hanno fatto più rumore altre decisioni riguardanti la moralità. Chi non rispetta il precetto pasquale, stranieri compresi, andrà in prigione. È proibito il valzer, definito danza oscena, arrestato chi è sorpreso a giocare la domenica o i festivi, sono vietati per le donne gli abiti attillati, divieto anche per le ovazioni nei teatri sospette di sedizione. Sono state rimosse le statue raffiguranti donne nude e chi per strada si avvicina troppo a una donna può finire in galera. Infine è stato emanato un provvedimento contro gli spacci di vino e le bettole, chiuse da cancelletti. Il risultato è che la gente compra il vino e lo beve per strada e Roma non è mai stata tanto piena di ubriachi. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. I ribelli greci sono impegnati su due fronti, da una parte la guerra contro l'impero ottomano, dall'altra quella intestina che sta dividendo coloro che provengono dalla zona continentale del paese da coloro che vengono dal Peloponneso e dalle isole. Nel frattempo molti liberali europei si stanno unendo a loro, compresi alcuni italiani e un personaggio inglese molto noto che è però morto a missi lungi per malattia. Si tratta di Lord Byron, parlamentare inglese diventato noto anche per la difesa dei luddisti, poeta e letterato. Sbarcato a Cefalonia nel 23, si è spostato proprio nella città di cui dicevamo sopra, dove stava pianificando insieme ad Alexandros Mavrocordatos l'assalto a Lepanto. Giorgio IV, del quale buon amico, lo ha soprannominato Humanity Dick. Si tratta del parlamentare inglese Richard Martin, assurto all'onore delle cronache 2 anni fa, quando, dopo aver fatto approvare una legge contro il maltrattamento degli animali, ha portato a processo un venditore ambulante e lo ha fatto condannare perché bastonava il suo mulo. Ora Martin ha fondato la Società per la Prevenzione della Crudeltà sugli Animali. Tra i soci ci sono sacerdoti, altri membri del Parlamento e anche un medico. Vienna ai piedi del maestro. Ludwig van Beethoven ha stupito la sua città adottiva ancora una volta con la composizione di una sinfonia straordinaria, la sua nona. Oltre alla parte esclusivamente strumentale, contiene una parte cantata. È l'inno alla gioia, composto, con qualche aggiunta a firma dello stesso Beethoven, dall'omonima composizione poetica di Schiller. Vienna ai piedi del maestro, si diceva, Europa commossa, perché quest'opera straordinaria è stata composta da un uomo ormai completamente sordo. È tutto dal nostro sito, potete accedere al nostro foglio quotidiano, al nostro blog, alla nostra pagina Facebook, lasciateci un commento, dal complimento alla critica feroce è tutto ben accetto, o fatelo prendendo penne e calamaio elettronici, l'indirizzo è sempre gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.